veloce, veloce, Angela. Veloce, veloce, veloce. Allora io ho comprato stamattina la ricotta a 89 centesimi. Sì. Io da bravo dottor Noce, oggi parlando veniva fuori che ero quasi il dottor Castagna, che rompiamo la cottura. Scusami, un po' bravina sono anch'io. Ma tu sei eccezionale, figurati, l'unica che deve star zitta su questi argomenti no, sono dai. Io che a malapena mi faccio il caffè la mattina. Miam miam. Ho una voglia di gelato, mamma mia. Miam miam. Per la prima volta abbiamo un campione tutto di donne, che non si sa mai. Beh, uomini, cioè, gravidanza, beh, uomini, non ne ho però, ancora visti, quindi però non capisco. Si sa mai, cioè, per come evolvono i tempi, eccetera. Io sento già che Patrizia è rimasta conquistata dal professor Ferrazzi. Devo dire che con questi, con i gatti che non fanno la cacca nel mare, ha conquistato anche noi. In offerta anche 0,80 o addirittura, certo, nei casi più aggressivi 0,65. Anche se in realtà molti supermercati, la ricotta aggressiva te la immagini lì, no? Che si alza e ti aggredisce. Ho voglia di sudare, solo più goloso di una mela. Oh, avanti un popolo con la chitarra rossa, che intanto il tempo passa e lei non torna più per conto di chi. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Maccherone, m'hai provocato, io me ne magno. Cuore e Denari Expo. Ultima puntata di Cuore Denari Expo, ma noi continueremo a stare insieme. Il nostro appuntamento pensato e dedicato a un'alimentazione consapevole in linea con i principi di Expo non finisce qui. Nel corso delle prossime settimane continueremo a seguire i nostri magnifici otto anche nelle loro fasi di mantenimento, per sapere se hanno metabolizzato questo nuovo percorso di benessere, se hanno cambiato le loro abitudini alimentari e soprattutto vogliamo capire da loro se hanno acquistato un certo livello di benessere, se stanno bene, se si sentono bene. Pier Mario, ad esempio, il nostro over 50, ha perso 6 centimetri di giro vita e si sente assolutamente più energico. La ex, dovremmo dire, sedentaria Anna Maria ci ha scritto che la bilancia segna un chilo in meno, il giro vita è perfetto e la pancia assolutamente piatta. Tutti soddisfatti, ci sembra? Allora, intanto lo dico già da subito che la prossima settimana Cuore e Denari sarà in diretta da Expo, quindi una settimana di trasferta per la nostra trasmissione, pertanto necessariamente dovremo continuare a monitorare questi argomenti, ma non solo, ci occuperemo naturalmente anche degli altri temi tradizionali di Cuore e Denari. Il padiglione, se già volete cominciare a segnarvelo, è quello di Cibus Italia, il padiglione Expo di Federalimentare all'entrata est Roserio. Speriamo, poi andremo sempre, speriamo di più nel di dettaglio, perderci. Speriamo di dare tutte le indicazioni giuste. Ci vuole una cartina qua, perché insomma la manifestazione, lo sapete, è molto grande ed imponente. Oggi concludiamo in bellezza con una bella famiglia che andremo a conoscere tra poco. Sarà molto interessante seguire la riorganizzazione alimentare di tutti i componenti di questo nucleo familiare. Infatti l'ultima nostra categoria è quella della coppia con figli. Ma prima di presentarvi i nostri partecipanti, salutiamo i due coach che ci accompagneranno per tutta la puntata e che hanno preparato il menù per le prossime 4 settimane dei nostri protagonisti di oggi. In studio con noi Lucilla Titta, nutrizionista, coordinatrice del programma Smart Food dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. E in studio con noi ad Arle Manforte Roberto Di Mauro, chef di origini calabresi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Lo vogliamo sottolineare perché c'è un perché, vero? Okay. Ma da tanto tempo trasferito a Milano, dove è docente di cucina, collabora con importanti ristoranti, chef e agenzia di catering. E naturalmente Deborah, c'è lui, c'è il lui, nostro lui, il nostro dottor Noce Castagna, come meglio preferisce. Sono qua, dottorina Carino, sì, mi piace. Dottor Attilio Speciani, specialista in in allergologia e immunologia clinica a Milano, direttore scientifico di Eurosalus, che è la piattaforma che noi cogliamo l'occasione per ringraziare di nuovo, che ha ospitato e continua ad ospitare i nostri questionari. Ci ha accompagnato lungo tutto l'arco di questi 8 appuntamenti con grande pazienza, ma si è anche divertito molto. Divertito tantissimo, non molto, veramente. Cioè, la partecipazione di tutti è stata corale, bella, e devo ringraziare io Andrea Giordano che lo ringraziamo, contribuisce davvero a creare e a raccogliere i dati in diretta. A proposito di dati, dottor Speciani, a microfoni spenti ci ha rivelato che la categoria delle coppie con figli è stata molto numerosa, si è piazzata al terzo posto insieme ai sedentari e agli stressati, dopo over 50 e sportivi, come proprio numero di adesioni di partecipanti. Imponente. Ma oltre ai grandi numeri, quindi una categoriona, quali sono gli altri dati che sono emersi da questi questionari? Ma bellissimi. Intanto iniziamo a dire che si fa presto a dire coppia, questo direi come titolo iniziale del riferimento, perché in realtà uno dice questo, non è... in realtà ci sono state persone con delle tipologie un po' diverse. Padri soli con figli, un genitore tornato a casa dai propri genitori, sì. E insomma la situazione ovviamente può essere anche un po' variegata, però mediamente, come spesso avviene nel sociale, quindi nelle coppie, più facilmente è il femminile ad occuparsi dell'attività. Infatti hanno risposto al questionario all'interno della coppia, direi l'86% di chi ha risposto era donna, quindi questo è un dato sicuramente interessante. Distribuzione devo dire molto varia, perché ci sono stati tendenzialmente paesi nel 38%, cittadine 17%, capoluoghi di provincia 17%, campagna 14%, molto, molto ben distribuiti rispetto alle tipologie iniziali, e dobbiamo dire che alcune situazioni sono abbastanza positive. L'esercizio fisico è fatto, è una popolazione mediamente attiva, questa delle coppie, dice che 2-3 volte alla settimana effettivamente si muove, soprattutto camminate. Una popolazione quasi a livello degli sportivi per quanto riguarda il self-measurement, cioè l'utilizzo di bilance impedenziometriche piuttosto che di apparecchi per misurare i passi e cose di questo genere. E poi invece c'è un tema estremamente interessante, che è quello del figlio come induttore di consapevolezza. È una domanda che era presente proprio all'interno della disquisizione dei questionari, e posso dire la presenza di figli ha cambiato in positivo le abitudini di quasi il 40% del campione. Possiamo anche girare questa domanda ai nostri ascoltatori? Certo. Vuole formulare lei la domanda precisa? Ma e io do il numero verde. La nascita di un figliolo, cioè quindi l'aumento della famiglia da questo punto di vista, ha portato ad una maggiore attenzione a quanto viene comprato o consumato, oppure ha così, come dire, mantenuto le abitudini precedenti? Credo che sia una domanda interessante, perché sia dal punto di vista sociologico sia dal punto di vista ovviamente economico e gestionale. C'è il grande dibattito che si scatena sempre con i bambini sul consumo delle verdure, no, perché non ne consumano volentieri, per cui in realtà c'è un momento di presa di coscienza generale in cui all'interno di questo nucleo familiare forse si deve fare un po' di più per sensibilizzare al consumo del vegetale. Il bambino non lo mangia generalmente volentieri, almeno non tutti. Dottoressa Titta, lo sappiamo, questo è un classico, vero? Sì, lo sappiamo. In realtà nella mia esperienza siamo convinti che ai bambini non piacciono le verdure, perché è quello di cui si lamentano le mamme, e quindi è quello che ci arriva, però è un po' parziale, perché invece tutte le madri che invece hanno i bambini che mangiano la verdura ovviamente non ne parlano. Quindi secondo me non è così vero. Sfateremo anche questa. Se posso dire, prima di citare l'ultimo elemento che è uscito, che è tortura e vizio, lo lancio perché anche io mi faccio un lancio interno, è l'elemento che porta comunque tutti i questionari di Radio 24, quindi pubblicati su Eurosalus, hanno portato, quindi questo vuol dire che c'è anche un pubblico, un ascolto evoluto, se posso dire, sempre frutta e verdura come il massimo acquisto, cioè la spesa ha come elemento primo dominante frutta e verdura. Questo secondo me è, lo devo dire qui perché è l'ultima trasmissione che faccio, per cui il lavoro l'ultima che faccio per ma non è detto che però, settimana prossima non ci sia qualche necessità da parte nostra, che però queste due ragazze qua che chiacchierano tutti i giorni in realtà creano consapevolezza, inducono comportamenti positivi, questo è un buon segno. Cito questa che è carina come elemento legato alla tortura o al vizio, perché il 54% del campione afferma di non cucinare niente di particolare specificamente per i figli, cioè tutto è, e poi c'è, bellissimo perché da una parte e dall'altra, circa il 25% che dice che invece vuole cucinare anche cose non gradite ai figli perché imparino ad adattarsi, e l'altro 25% che

Sì. Quindi l'aspetto fisiologico è importantissimo, perché in Italia abbiamo un'incidenza di obesità infantile molto alta, e ormai sappiamo che un bambino obeso, sovrappeso obeso in quella fascia d'età è condannato nell'80% dei casi a combattere col sovrappeso e l'obesità per tutta la vita. Quindi magari i genitori non si rendono conto, perché c'è ancora un po' questa idea che il bambino nell'età dello sviluppo smagrisce, si dice, mentre no? invece si ha poi una incidenza di malattie correlate all'obesità che insomma è altissima, che nessuno si augura per i propri figli, che si possono evitare, perché non farlo? Diabete tipo 2, ma anche tumori, malattie cardiovascolari, ormai ci sono queste correlazioni che sono dimostrate e condivise a livello scientifico. Quindi questo è molto importante. Anche proprio il numero di adipociti, ci sono anche studi molto precisi, la grandezza, se si aumentano in quella fascia d'età, poi è difficile e si hanno comunque dei danni anche durante, cioè la sovrappeso obesità anche nei bambini, proprio danni fisiologici, aumento della possibilità di avere appunto aterosclerosi, insomma veramente abbiamo molti studi. E quindi il sovrappeso nuoce anche ai bambini, questo è il messaggio. Esattamente. Anche se per noi è stato a lungo, no? Il bambino cicciottello, il bambino in salute, in realtà adesso sappiamo che il sovrappeso fa male anche a loro. E questo non lo comunichiamo mai abbastanza. Il secondo aspetto, lei diceva, educazionale. Educazionale, perché se il bambino, diciamo, nella sua quotidianità alimentare e nutrizionale ha proprio tutta una serie di stimoli, e quindi è proprio educato dai genitori in questo senso, se lo porterà tutta la vita, avrà un imprinting indelebile. Questo penso che vale per tutti noi. Quindi quando si dice che appunto il sovrappeso e l'obesità sono ereditari, non è ereditario dal punto di vista fisiologico, ma proprio dal punto di vista ambientale. Quindi da quello a cui sei abituato a vedere, a mangiare, a cui sei insomma esposto. Noi non le mangiamo, ma andiamo a vederle. Le borse. Brava. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Cuore e denari. Dai, usciamo a fare la spesa. Il nostro studio è sempre più affollato, ci fa davvero piacere. Fra un po' non avremo più cuffie, microfoni e seggiole a sufficienza, ma insomma ci divertiamo. Il contributo su questi argomenti non è mai, direi, abbastanza, perché aggiungiamo si posti a tavola. Altro che, esatto, che c'è un amico in più. È arrivato infatti Luciano Mazzone, il nostro coach del risparmio, chiamiamolo così. Ben ritrovato. Clicca promo pazzi per le offerte. Buongiorno a tutti. La spesa per una famiglia con figli è sempre un momento delicato, ci sono tante esigenze da conciliare, magari qualche piccolo vizio da accontentare, al tempo stesso non ci si può dimenticare di costruire un menù che permetta un'alimentazione sana, ma anche, come dire, economicamente parlando, compatibile con il portafoglio. Un sano risparmio è quello che non deve mai mancare anche all'interno delle abitudini familiari, quando ci sono poi più bocche da sfamare. Naturalmente questo è un aspetto indubbiamente importante. Allora, 800 24 00 24, il numero verde con il quale vi invitiamo anche oggi a diventare i nostri inviati, gli inviati di Cuore Denari Expo. Raccontateci come funziona la spesa nella vostra famiglia. C'è una persona che ha il compito di fare gli acquisti per tutto il nucleo familiare, vi regolate con una lista della spesa, avete una o più rivendite di fiducia. Luciano, il nostro padre di famiglia, chiamiamolo così, ci ha raccontato di essere soprattutto lui a fare la spesa, ma spesso se ne occupa anche la moglie. Ci ha spiegato che si reca al supermercato per tutti gli acquisti, tranne che per frutta e verdura, che preferisce invece acquistare ai mercati rionali. Una prassi diffusa, no Nicoletta, questa? Certo, Luciano, mio marito, la spesa penso che l'abbia fatta 3 volte nella sua vita, cioè mi accompagna ma... e ti molla lì. Ecco, Luciano, abbiamo detto tutto? Sì, conferma? Tutto. Confermo. Infatti vedi, adesso appena finisce vado a fare la spesa. Ecco. Allora Luciano, vedi, è un uomo da sarebbe stato un uomo da sposare, ha fatto bene alla sua moglie. Allora in bocca al lupo per questa sua avventura. Più avanti naturalmente troveremo un'occasione in una prossima puntata per ricontattarla, per raccontarci com'è andata questa prima settimana di sperimentazioni nuove in questa famiglia. Un altro Luciano invece, come ho salutato poco fa, Luciano Mazzone, l'amministratore delegato di Clicca Promo, pazzi per le offerte. Ricordo anche ai nostri ascoltatori che nella sezione speciale del nostro sito dedicata al progetto Cuore Denari Expo trovate per ogni categoria di quelle di cui vi abbiamo raccontato nelle passate settimane, insieme ai consigli di salute e menù, anche la lista dei prezzi e della spesa, e per ogni spesa la squadra di Clicca Promo ci aiuta ad individuare il possibile risparmio. Frutta e verdura, grande distribuzione batte il mercato rionale, Mazzone? Ma allora, a volte sì, soprattutto con le offerte, penso al caso dell'anguria che nelle prossime settimane scenderà a pochi centesimi al chilo nella grande distribuzione, un prezzo che difficilmente si nota, si già può. Questa discesa, insomma. Beh, questo grafico che comincia a scendere sulla frutta e verdura di stagione, ovviamente in estate è il momento più propizio. L'abbiamo portato il prezzo del cocomero in questo momento? No, ce l'abbiamo, posso recuperarlo. Adesso lo recuperiamo subito. In realtà noi abbiamo scelto dalla lista della spesa che il nostro coach alimentare ha predisposto per Luciano due alimenti per i quali appunto invitiamo come sempre i nostri ascoltatori ad andare a fare un po' monitoraggio al mercato, al supermercato, se proprio in questi minuti sono a fare la spesa. Abbiamo scelto questi due prodotti, il couscous e il merluzzo. Settimana che si sposerebbero anche tra l'altro insieme, Roberto, sempre, sì, certo. Assolutamente. Perché un couscous integrale, semi integrale, con il merluzzo avremmo il piatto completo. Mancherebbero un po' di verdure, però l'abbiamo fatto al volo. Perché Lucilla Titta punta molto sul piatto unico, eh? Sì, totalmente. Perché totalmente così? Perché con i bambini, specialmente, si rischia, dandogli appunto, non so, un bel piatto di pasta asciutta, che poi non mangino più niente. E quindi diciamo, non assumono abbastanza proteine, soprattutto non mangiano la verdura. Invece tutto lì nel loro bel piattino, sì, mangiano, le mamme non si alzano. Ma mangiano i bambini il couscous, secondo sì, te? Sì, sì, piace un sacco. Cucchiaiate come piace a noi. Col cucchiaio, sì, esatto. Con le verdure, insomma, è buono. Allora, tra l'altro, per chi non lo sapesse, il couscous, no, perché sai, noi raccontiamo sempre di quinoa, bulgur, couscous e quant'altro, ma non tutti poi conoscono in realtà, no? Certo. Questi alimenti. Questo è tipico del Nord Africa, ma in realtà largamente consumato anche nel meridione d'Italia, in Sicilia. Sicilia, ci sono dei couscous, piatto regionale internazionale del couscous. E possiamo anche dare le date di questo festival adesso. È a San Vito, sì, a settembre, però sulle date ci trovate un po' impreparate, sì. Ma questo per dire che almeno nel sud Italia il couscous, devo dire che è ben conosciuto, quindi abbiamo una buona probabilità. Ottimo. Che i nostri ascoltatori sappiano di che cosa stiamo parlando. Una confezione da 500 grammi quanto ci costa, Luciano Mazzone? Ma il couscous è un alimento abbastanza economico, siamo intorno all'euro per una confezione da mezzo chilo in offerta, che un tra euro l'altro e mezzo. Appena si mette a cuocere, a bollire, diventa, come dire, cresce, quindi cresce. Insomma, una bella confezione da 500 grammi, hai voglia in quanti ci mangiano, non solo in quattro della famiglia di Luciano, dottoressa Titta? Yes. No, nemmeno in 10, esatto. Almeno. Altro che. E poi ecco, quando viene arricchito con tutto il resto diventa veramente un piatto che ha incredibile. È veramente un piatto da re, il couscous. Sì, tra l'altro velocissimo, basta solo farlo rinvenire perché appunto è precotto. L'importante appunto è scegliere semi integrale, integrale. Adesso nelle grandi catene di supermercati si trova nella grande distribuzione, e quindi insomma abbastanza semplice da reperire. Allora ribadisco, couscous e merluzzo, andate a vedere quanto costano stamattina nel vostro negozio di alimentari di fiducia o al supermercato di fiducia. Naturalmente per tutti coloro che ci rispondono, 800 24 00 24 è pronto il kit dell'inviato. 8 alimenti abbiamo selezionato per la lista della spesa di questa settimana. Quali sono le offerte più interessanti, Luciano Mazzone, che abbiamo trovato? Quanto costerebbero a prezzo pieno e che tipo di offerta abbiamo individuato? Ma allora mi sento di segnalare riso, ceci e fagioli, che consentono risparmi dell'ordine del 40%, quindi molto significativi, e sono prodotti che possono tranquillamente essere comprati e di cui si può fare scorta mettendoli in dispensa per diverse settimane. Quindi quando c'è una buona offerta su questi prodotti, noi consigliamo sempre di portarceli a casa. Esatto. Allora, avremmo avuto per questa lista, non è la lista completa della spesa, abbiamo selezionato 8 alimenti, circa 36 euro, intercettando appunto le offerte che Clicca Promo ci permette di individuare tra le insegne della grande distribuzione, arriviamo a spenderne circa 25. Ribadiamo allora, i prezzi più scontati trovati sono riso, ceci e fagioli, giusto? Esattamente, riso basmati 1,73 euro un chilo, 40% certo, in meno rispetto al prezzo pieno. Per il prezzo del pesce, del filetto di merluzzo, del filetto di trota, sono sul fresco o sul congelato? Sono prezzi del prodotto fresco, mezzo chilo intorno ai 7 euro a prezzo pieno, 5 in offerta, quindi anche qui un risparmio di 25-30%. Vanno bene freschi, vanno bene congelati. Il giro la domanda naturalmente a Lucilla Titta, ma anche a Roberto. Certo, Lucilla, noi consigliamo sempre di utilizzare alimenti freschi di stagione, però capiamo anche che insomma l'esigenza di una famiglia con due lavoratori non si può magari, quindi va benissimo anche la verdura, va congelato, il pesce, dipende sempre da cosa è surgelato, non tanto dalla tecnologia del surgelamento. Forse è meglio surgelato del fresco in alcuni casi. Ah, ad esempio? Anche cioè, io vado un po' in giro, c'è molti pesci vendoli e molte pescherie dove è meglio comprare pesce surgelato che fresco. E qua viene fuori il calabrese che c'ha l'occhio per il pesce, esploso, oltre che il cuoco. Infatti, sentiamo qualche ascoltatore. Ma volentieri, dai. Andiamo da Paolo da Milano, perché qua abbiamo lanciato la sfida su che cosa tante è cambiato sfide con l'arrivo di un figlio, perché magari prima qualcuno mangiava un po' più superficialmente, invece l'arrivo di un bebè responsabilizza anche in questo senso, non cambia solo il portafoglio, anche un po' proprio l'educazione alimentare. Paolo da Milano, cosa è successo a lei? Sì, ciao a tutti, grazie per avermi chiamato. Io porto l'esperienza di mio fratello che da qualche anno ha avuto un figlio, è passato dai fast food, diciamo alla frutta e verdura, centrifughe, pesce, preferito la carne, prodotti di soia, paste particolari, addirittura il Kamut, voi parlavate dell'integrale. Addirittura. Sì, perché si conosce poco. Però posso dire una cosa, spero che mio fratello non mi ascolta, no, è diventato anche un po' troppo maniacale secondo me, perché allora dice prende le acque in bottiglia solo con residuo basso fisso, dice che ci sono molti grassi vegetali in prodotti come l'olio di palma, oppure ne parliamo domani, è il grande tema del momento, dopo 4 anni non si deve usare perché perdiamo l'enzima, cioè sono tutte cose che pesticidi nella frutta, cioè secondo me si diventa un po' troppo maniacali, non so cosa ne pensano gli ospiti, vi ringrazio. Ma cosa è proprio successo? Paolo, è proprio successo quando è arrivato questo bambino? Si trovava meglio prima, mi sembra. Lei non è stato più invitato a cena naturalmente, o perlomeno non va più. Allora, ma dottoressa Titta, succede in molte famiglie questo cambiamento radicale che viene attribuito all'arrivo di un figlio, oppure succede dell'altro, insomma questa assunzione di responsabilità alimentare? Ma io l'ho osservato parecchio, diciamo che nel campo proprio dell'alimentazione è difficile trovare un equilibrio. Anche proprio anche senza avere un bambino, cioè comunque si sta sempre un po' agli estremi, o si dà troppissima importanza, è una cosa vitale assolutamente, oppure invece non conta niente, quindi spesso si trovano questi estremi. Ovviamente quando si ha un bambino di cui ci si vuole occupare, a cui si vuole dare il meglio, si è più stimolati a informarsi, a capire cosa è la cosa migliore, però il rischio di diventare ortoressici c'è. Dottor Speciani? Sì, devo dire che esiste anche questa dimensione nella prospettiva proprio della salute del figlio. Quando un bimbo è malato, scatena nelle mamme e nei papà un senso di colpa terribile, cioè questo lo si vede costantemente. Quindi ognuno cerca ovviamente di identificare una soluzione migliore che possa essere di utilità. Io devo dire che anche nel complesso vedo questa cosa come enormemente positiva. Tra l'altro, cito una cosa, la cito anche per Mazzone, l'unico gruppo, quelli con i figlioli che per ora abbiamo visto, che abbia nei questionari fatto emergere con una certa consistenza il ricorso ai gruppi di acquisto solidale, quindi i GAS, mentre tutti gli altri questionari erano legati sempre a supermercati, ipermercato, eccetera, in realtà è la prima volta che esce in maniera corposa, che è un tema interessante. E allora dovremmo rifare una puntata, probabilmente proprio una specifica sui GAS, non l'abbiamo mai fatta. Nicoletta, eccoci qua pronti, visto che settimana prossima andiamo ad affrontare il mondo del cibo nel luogo principe di questo momento. Io direi che la faremo sicuramente, e è da fare, ma noi dobbiamo anche andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, andiamo, ad esempio. Andiamo. State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Cuore e denari. Voglio fare un Fiat su Marte per un telegiornale spaziale. Un appello agli ascoltatori di Cuore Denari Expo: candidatevi a diventare i nostri inviati, chiamate l'800 24 0024. Il vostro contributo è importantissimo. Vi stiamo chiedendo se l'arrivo di un bambino nelle vostre case ha cambiato il vostro modo di organizzare la spesa, il vostro modo di cucinare, il vostro stile alimentare, quale attenzioni seguite, quale raccomandazione, no, orientano le vostre scelte. Ma abbiamo naturalmente anche una convocazione per i denari, per i nostri ascoltatori. Stiamo chiedendo un piccolo reportage su couscous e merluzzo, come li trovate commercializzati, quanto costano nel supermercato sotto casa vostra, in che formato li acquistate e per cucinarli in che modo. Alla dottoressa Lucilla Titta e a Roberto Di Mauro noi oggi vogliamo però chiedere come hanno organizzato, quali sono i capisaldi di un'alimentazione che soddisfi le esigenze nutrizionali di gusto dei genitori e quelle dei bambini, con un occhio sempre alla salute e uno al portafoglio. Abbiamo anticipato quindi piatti unici, sicuramente una buona scelta, perché così i bambini riescono a mangiare un po' di tutto, un risparmio anche di fatica per le mamme e per i genitori, perché si porta tutto in tavola e non ci si alza più e si ha più tempo per stare con i bambini, conversare a tavola e non, no, fare quei pranzi sempre in cui c'è qualcuno che va a cercare qualcosa. Mettiamo a punti fermi questa dieta, che naturalmente può essere seguita anche dalle persone che hanno bambini un pochino più grandi, cioè è uno stile alimentare che, certo, va bene per tutti. Lucilla Titta, Roberto, diteci proprio a punti che cosa dobbiamo fare e perché, quali caratteristiche si connota il vostro stile. Allora, diciamo, il primo punto è la colazione. Quindi abbiamo pensato una colazione abbondante e con un forte taglio salutare, quindi sì, niente prodotti da forno confezionati, solo pane integrale preferito, con i semi, senza semi. Suggerisco, ecco, di comprare del pane che piace, tagliarlo a fette e metterlo in freezer, di modo che la mattina a colazione si può prendere le fette che servono e tostarle, non c'è bisogno di scongelarlo. Scongela e tosta nello stesso tempo, è un buon profumo che si sente in casa, è buono, con marmellata, frutta secca, yogurt, latte, qualsiasi preferito, vegetale, non vegetale, chi se ne importa. L'importante questo è un risvezzamento, quello che ci chiede però, perché adesso togliere ai bambini alla colazione i biscotti e le merendine. La dottoressa Titta fa, no, il pane integrale, ma io voglio vedere poi che cosa scatena, allora, questa proposta. Sempre, diciamo, cercare di inserire le cose in maniera delicata. Se si hanno bambini con delle abitudini tragiche, tipo biscottazzi pieni di zuccheri e grassi, la mattina magari fare delle specie di contrattare, cioè dire bene, due volte alla settimana i biscotti, le altre tre proviamo il pane magari con una crema di nocciole e cacao per renderlo più appetibile, poi magari la marmellata invece in un secondo tempo, piuttosto che diluire lo yogurt preferito molto zuccherato, la frutta, con dello yogurt bianco per diminuire, no, la sensazione di dolce. Con i bambini, se sono abituati a tanto zucchero, la parola d'ordine è diluire anche i cereali. Se i bambini mangiano i cereali molto zuccherati la mattina, mescolarli con quelli senza zucchero, certo. E quindi gradatamente, dimostrato anche scientificamente che se ci si abitua in maniera graduale, poi dopo non si ricerca più. Certo. Pranzo, adesso cena, che sono uguale, a casa, perché sennò bisogna, certo, tenere in considerazione anche il pranzo del... e cena. Io sono per la semplicità, sì, e quindi siccome le verdure altrimenti non le mangiano quasi nessuno, è la prima cosa. Quindi prima di pranzo e prima di cena, mentre si prepara, mentre si tagliare verdura cruda, perché sì, ai bambini generalmente finocchi, piace molto di più, pomodoro, la qualsiasi, la qualunque, come la qualunque si dice. D'inverno anche broccoletti e cavolfiori non sottovalutati, di crudi. Sì, io li grattugio crudi sono molto sulla buoni. Pasta. Sono buonissimi, sono di noce. Quindi a proposito di noce. Sono veramente buoni. Mm. Anche frutta secca magari d'inverno, due se non hanno tanta fame. Ma adesso noi sperimentiamo questo proprio in estate, e forse è più semplice il cambiamento, certo, in estate. Sono a casa, sì, sono in vacanza. Il mercato è ricco di proposte, frutta e verdura. Esatto. Abbiamo le ricette. Giocano sempre, sono più distratti. Hanno più fame perché si muovono di più. Ho fame, e si danno esattamente, cioè nella devono essere sempre disponibili, bisogna sempre averle in casa e devono essere sempre pronte da sgranocchiare. Io vorrei che Roberto tu ci facessi venire un po' l'acquolina in bocca. Noi torniamo bambini, vediamo okay. se le tue ricette hanno il giusto appeal per un bambino che le verdure non ne vuole proprio neanche incontrare. Le abbiamo date in versione cruda, sì, ecco. Okay. Lucilla parlava di una crema di nocciole e cioccolato. Quale ricetta sfiziosa hai preparato per la prima settimana del nostro Luciano? Abbiamo fatto un po' di appunto di piatti unici, combinando il riso, il couscous integrale o alcune salse veloci da preparare, come una salsa allo yogurt, degli spiedini di pollo con credo dei broccoli gelo, anche se non siamo in stagione, visto che c'è anche il tacchino, peraltro quindi abbiamo usato anche un po' di carne bianca, quindi proteine non solo, cioè di origine animale, ma assolutamente carne bianca, non carne rossa, proteine di origine vegetale, quindi un sacco di legumi, che ha detto Luciano Mazzone che sono assolutamente vantaggiosi. Possiamo farne scorta, vero Luciano? Sì, esatto, sono di quei prodotti che non scadono, non sono freschi, quindi possono tranquillamente essere stoccati, come si usa dire in dispensa, per lunghi periodi. Allora, volevo capire, ma non abbiamo forse il tempo di farlo, la sentiremo dopo, volevamo provare a sentire com'è andata la prima settimana di riorganizzazione alimentare di Patrizia, sì, la nostra donna col pancione. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, grazie. La dimensione della quale parliamo stamattina è quella con la quale tu prenderai confidenza a breve, no? Sì. Quella di col bambino in casa. Esatto, ecco. Infatti interessantissima anche questa. Infatti, senti, com'è andata questa tua prima settimana? Bene, in realtà ho cominciato soltanto sabato, quindi non è proprio una settimana intera, però devo dire che mi sono adattata benissimo. Non solo io, ma anche mio marito è molto felice e contento di questo nuovo regime alimentare. Qual è stato l'aspetto un po' più critico? Esatto, o complicato da gestire? Ma complicato, diciamo che magari bisogna stare un po' più ai fornelli, quindi per me che ancora lavoro non è che sia proprio una passeggiata, però è anche un motivo di relax e poi di comunione con il marito, che è pure bravo a cucinare. Bene. Quindi le ricette le prepariamo insieme. Sono già andati tutti, quelli andati, che sì, fanno la spesa, cucinano, Deborah. Infatti, esatto. Patrizia, sì, continua. Tra l'altro, sì, anche lui mi prepara il pane integrale, quindi sono felicissima di questa cosa. È bravissima a fare il pane, allora che io sono, diciamo, usufruisco di benissimo queste sue doti. Anche Patrizia ci ha dato delle gran soddisfazioni, noi continueremo a seguirla certamente, visto che siamo tutti zii virtuali di questo bebè in arrivo. Grazie intanto, come sentite dalla musica in sottofondo è tempo di andare a sentire il giornale radio, ma ritorniamo con Cuore Denari Expo tra pochissimo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. cuore e denari. Certo, la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna, è gialla d'estate. Riprendiamo Cuore Denari Expo e, come sanno i nostri ascoltatori, questo è il momento di scoprire uno dei mestieri che orbita intorno al mondo del cibo e dell'alimentazione. Prima però volevo attribuire il nostro kit dell'inviato di oggi, lo regaliamo a Giuseppe da Bergamo, che ci scrive il prezzo che ha trovato del couscous oggi a 1,48 euro, ci indica un'insegna della grande distribuzione sempre molto nota qua in Lombardia. Quando è in offerta lo trovo anche ad 1 euro. Attualmente trovo in offerta il merluzzo di un grande marchio molto noto surgelato, per cui Giuseppe, che è andato a controllare per noi questa mattina, naturalmente si merita il kittone dell'inviato, la borsa, il taccuino, la penna, il cappellino e magliette, chi più ne ha più ne metta. E poi, le foto. Esatto. Giuseppe, se poi settimana prossima, così ben agghindato, vuole venirci a trovare a Cuore Denari, che sarà in trasferta ad Expo allo stand di Federalimentare, venga naturalmente, che noi la saluteremo volentieri. Allora, dicevo, è lo spazio dei mestieri del cibo. Uno spazio siamo che realizziamo al punto. Esatto, grazie al Sole 24 Ore, a Food 24. Andate sul sito del Sole 24 Ore, dove trovate i contributi video che ci permettono di conoscere i protagonisti delle professioni che vi raccontiamo. Salutiamo anche per questa volta al telefono la nostra Fernanda Roggero. Fernanda, ben ritrovata. Buongiorno, sono a Venezia perché sono venuta a studiare come si fa il perfetto Bellini. Fantastico, poi ci darai la ricetta? Quando, sì, certo. Pesca bianca e vino. Prosecco, esatto, sì, però pare però che ci siano due o tre trucchi. Averlo saputo, mamma mia, impara bene, ecco. Non perderti nulla. No, poi scrivici la ricetta che la mettiamo vicina a quella dei nostri coach di queste settimane. Averlo saputo, le davamo il kit dell'inviato, così andava bella rappresentativa, sì, della nostra squadra. Qual è invece il mestiere del cibo di questa settimana che ci racconti, Fernanda? Il mestiere del cibo di questa settimana è il food tracker. Tradotto per i comuni mortali? O gli italiani? Praticamente sono quelli che cucinano sui furgoncini, prevalentemente a Pecar. Ci dobbiamo proprio... Stanno veramente andando per la maggiore, è la nuova tendenza. Allora, noi abbiamo anche dato un'occhiata per curiosità al video che hai già realizzato e che è già online sul sito del Sole 24 Ore, dove attacchi così: dimenticatevi la vecchia immagine del porchettaro all'uscita dello stadio o del furgone aperto tutta la notte davanti alla discoteca. Anche loro si sono evoluti, e in che modo? Molto professionale. Sì, assolutamente, perché con questi mezzi strani e quindi per questi spazi piccolissimi riescono veramente a fare cibo di qualità, in alcuni casi addirittura proprio cucina gourmet. Ci sono alcuni piatti di alte cucine, cioè ci sono alcuni track dove per esempio trovi dei fantastici ceviche, che adesso anche questi sono, la cucina peruviana è cucina molto di tendenza, il pesce crudo, non è così semplice trovarli. Tra l'altro anche i cantanti lirici peruviani vanno molto, hanno avuto 50 minuti di applauso alla Scala. È il momento del Perù. Del Perù, evidentemente, sì. Quindi insomma questo. Senti, no, mi tra è piaciuto l'altro così questo tocco. Questo tocco di classe nel bel mezzo del cibo. Noi ci infiliamo anche la musica, naturalmente arte di vario tipo. Tra l'altro, Fernanda, che differenza c'è tra il food tracker e lo street food? Parliamo sempre dello stesso mondo? Sì, praticamente sì, perché in realtà è cibo di strada, è sempre cibo di strada. Diciamo che ci sono alcuni che sono poi un po' più stanziali, ad esempio il food tracker che abbiamo intervistato noi ha un apricar che staziona sempre davanti alla Bocconi, però tendenzialmente li trovi in giro spesso nelle manifestazioni, questi festival molto belli che vengono fatti in giro per l'Italia. Allora, intanto la persona che tu ci hai segnalato adesso, Nicoletta, l'andrà a salutare, certo, perché è vicino a casa sua, ma noi lo salutiamo. Vado con direttamente Emma, però, vengo con il mio cane. Guarda che ci sono anche i food tracker con gli alimenti per cani, dolcetti per cani, ho persino visto, per cui veramente qua vediamo se ce li ha anche per lui. Chi ha voglia di lavorare e di cosa da fare ce ne sono, direi. Ecco, concluderei con questa pillola. Antonio Dell'Ermo, nostro food tracker di oggi, che conosciamo e ci facciamo raccontare come ha deciso di avviare questa professione, un trentenne molto molto creativo e molto fantasioso. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi contattato. Allora, non è proprio un mestiere improvvisato quello del quale parliamo oggi, letteralmente, come ci diceva Fernanda, sarebbe camionista del cibo. In realtà parliamo di professionisti giovani, spesso laureati, sì, appassionati di cibo. La tua storia, Antonio, qual è? Allora, la chiave di tutto è proprio la passione per il cibo e la voglia di riscoprire quelle tradizioni che con la globalizzazione odierna sono state dimenticate. In pratica noi serviamo tutto quello che è derivato dal mondo della farina, quindi pizze, panini fatti col pane della pizza, pizza fritta. In sostanza il segreto, diciamo, di questo lavoro è molta passione, cura per i dettagli, continuo aggiornamento e cercare comunque, certo, di innovarsi rispetto alla tradizione, perché i gusti comunque cambiano, e cercare di adattarli rispetto alle esigenze del consumatore in modo da rendere un prodotto tradizionale, certo, ma sempre vivo ed interessante. Come si qualifica, Antonio, la vostra professionalità? Perché qua non si tratta solamente di comprare o noleggiare un furgoncino e un apecar, ma naturalmente poi di attrezzarlo molto professionalmente, dotarsi di tutte le certificazioni necessarie per andare sul territorio con il prodotto alimentare. Qua sulle autorizzazioni si apre un altro mondo, è tutt'altro che facile. Tu come hai fatto? Quanto tempo ci hai messo anche ad attivarti con la tua attività propria in questo campo? Allora, io sono stato molto fortunato perché il Comune di Milano, che ci ha rilasciato la nostra prima licenza, dispone di veri professionisti, di numeri, di telefono, quindi non è necessario recarsi sul posto e andare a chiedere delle informazioni, ma puoi tranquillamente chiamare. I funzionari del comune ti danno tutte le informazioni necessarie dal punto di vista della sicurezza, ma soprattutto igienico-sanitarie, affinché vengano rispettate le normative. E il rilascio della licenza avviene in 3 mesi, dopo che vengono fatti tutti i controlli necessari. È indispensabile che la persona si autocertifichi dimostrando di avere una cappa di aspirazione piuttosto che un lavandino con il carico delle acque pulite, lo scarico delle acque sporche, tavoli inox che sono facilmente pulibili, quindi tutte le attrezzature necessarie per garantire la sicurezza del prodotto e soprattutto la sicurezza del consumatore. Certo, Antonio, tu ti sei avventurato in una città come Milano, c'era bisogno di una cosa di questo tipo? Qual è il tuo cliente più affezionato? Insomma, da quale clientela riscontri che sia particolarmente apprezzato un servizio di questo genere? Con grande soddisfazione ti dico che tutti i nostri clienti vanno dai ragazzini della scuola fino alle persone che escono dall'ufficio e vanno di fretta e non hanno tempo magari per fermarsi a cena in qualche posto, perché comunque hanno 1000 appuntamenti e 1000 cose da fare. Quindi è un'attività molto interessante, in quanto ti permette di stare a contatto con tantissime persone diverse, dai più giovani, quindi capire le loro esigenze, fino alle persone un po' più adulte. Certo. È importante anche la localizzazione. Esattamente. Lui si è piazzato in un posto, esatto, in però tu potresti in un muoverti. Luogo milanese dove è vicino ad un'università, ci sono le scuole, c'è il parco e quindi una clientela molto varia. Hai bisogno anche di un'autorizzazione per stare dove stai, Antonio, o comunque puoi spostarti tranquillamente per tutta Milano? Allora, ci sono 2 tipi di autorizzazioni. La licenza ambulante con posto fisso, che è quella di cui noi non disponiamo, ma c'è un'altra licenza che si chiama licenza itinerante di tipo B, dove tu puoi spostarti tranquillamente in tutta la città di Milano, evitando delle zone dove non si può stare, e puoi stare in pratica 2 ore e poi devi spostarti. Certo. Ci sono delle zone vietate, tipo i mercati rionali, devi stare a 300 metri di distanza da un mercato rionale, oppure 300 metri di distanza da alcune piazze vietate. Chiarissimo. Quindi volendo, Antonio potrebbe pure venirci a trovare. Fai. Certo, dai. Sì, volentieri. Noi veniamo volentieri a trovare te, ma tu ci riconosci perché ci mettiamo il kit dell'inviato di Radio 24. Quindi vai, due buffone qua fuori davanti al palazzo di Monterosa, ci riconosci subito. Allora possiamo venire, possiamo. Ottimo, guarda, grazie. Molto volentieri. Antonio, un'ultima domanda che è quella che più ci interessa, perché qua la donna di denari che è in me deve sempre avere così la meglio ad un certo punto della trasmissione. Quanto ti è costato questo investimento, avviare un'attività di questo tipo? A chi la consigli anche? Perché non è proprio un investimento piccolino, un po' di soldini servono. Guarda, noi abbiamo ristrutturato la nostra prima apecar e abbiamo speso sui 48.000 euro. È chiaro che è dotata di un sistema idraulico per l'apertura in tutti e 4 lati, si alza fino a 3 metri e mezzo, l'operatore può salire sopra. che è una vetrina a frigo di esposizione fatta ad hoc su misura. Il problema è che queste api sono veramente molto piccole e c'è uno studio ingegneristico dietro di notevole impegno, in quanto vanno sfruttati tutti i piccoli spazi e tutte le attrezzature che vengono messe. Nel 99,9% dei casi vengono fatte su misura. È chiaro che lavorare un inox su uno spazio di 20 centimetri per creare un piano d'appoggio, una piccola mensola, crea tanto lavoro, e la maggior parte degli artigiani che fanno questo lavoro trovano difficoltà e preferiscono fare dei lavori standard piuttosto che questi lavori di torneggi. Quindi di Antonio, conseguenza... noi metteremo la tua storia, l'intervista che ti ha fatto Fernanda, anche sul sito di Cuore Denari Expo, così che ne possano fruire tutti questo grazie. Bellissimo esempio che tu ci hai dato. Posso consigliarlo? Mi chiede a chi posso consigliarlo? Sì, certo, tutti scusami. Quei giovani dove non hanno nessuna certezza per il futuro, ma l'unica certezza sono loro, la loro passione, la loro voglia di costruirsi il loro futuro. Però non ci si improvvisa, che sia chiaro anche questo messaggio, non è che possiamo comprare l'ape, mettere su due panini e via, cerchiamo anche lì di puntare sul prodotto di qualità. Come vi dicevo prima, il fatto della tradizione, è vero che noi siamo fortunati in Italia ad avere una tradizione molto ricca, ma la tradizione va aggiornata, va continuamente ripresa, in modo che non diventa qualcosa di scontato. Grazie. Perché se tutti fanno la pizza fritta nello stesso modo per 5-10 generazioni, va a finire che poi non c'è quel valore aggiunto che il consumatore vorrebbe. È tardissimo, grazie ad Antonio Dell'Ermo e a Fernanda Ruggero, e naturalmente più avanti, anche nelle prossime settimane, sicuramente torneremo a raccontarvi di altri mestieri del cibo. Adesso? Adesso io volevo chiudere con due consigli dai nostri coach, con Roberto, abbiamo sentito il cibo da strada e tu dicevi a microfoni spenti che però bisogna tornare a cucinare e a riscoprire il piacere della cucina e a condividerlo naturalmente con i bambini. Piatti che ci sembrano impossibili, che non prepariamo, magari perché pensiamo che siano troppo complicati o che richiedono tempo, in realtà, e nelle vostre ricette lo scoprirete, si fanno veramente in un batter d'occhio. Roberto, la prima cosa che vorrei dire è che dovremmo capire le stagionalità, tornare un po' a comprare gli ingredienti stagionali. Sì. I pomodori si mangiano in estate perché sono buoni, non a dicembre. Già su queste, se uno iniziasse a fare queste cose, anche i bambini lo apprezzerebbero assolutamente. Poi per le ricette veloci, un esempio che faccio sempre, ma è una ricetta che ho ripreso da mia nonna un po' di tempo fa, facendo un corso di formazione c'era un grande chef di cui non faccio il nome, stava realizzando dei ravioli con un metodo di cottura che a me sembrava conosciuto. Sì. Era quello che faceva mia nonna in campagna, quando eravamo in campagna. Quindi, ed è una cosa semplicissima, un po' di acqua, un po' di olio, uno spicchio d'aglio, lo metti a sobbollire un po' di minuti, metti dentro le zucchine, le copri, 5 minuti e sono cotte. Voilà. Assolutamente, quindi... Per questo, tornare alla tradizione evolvendo, come diceva il nostro food tracker. Il food tracker. Mi è piaciuta, eh? Allora, sì. Noi abbiamo il tempo dell'editoriale. Il tempo dell'editoriale. Ti abbiamo detto, si tinge di rosa. Cuore e Denari Expo. Editoriale che dedichiamo ai temi dell'esposizione universale come sempre, ma in questo caso, come anticipato, un editoriale in rosa perché è proprio dedicato a noi. Esattamente, il 29 e il 30 giugno, segnate anche questo appuntamento, oltre a tutte le indicazioni di educazione alimentare, le ricette che vi diamo continuamente, ci sono anche degli appuntamenti da seguire. In queste due giornate si tiene ad Expo il Women's Forum Italy 2015, due giornate di riflessione e confronto senza pregiudizi e steccati ideologici, come naturalmente sottolineano le organizzatrici, fra donne e uomini provenienti da tutto il mondo e da tutti i settori della società, dalla politica all'economia, dal mondo delle aziende a quello della ricerca, sui temi chiave di Expo: innovazione, sostenibilità, accesso alle risorse ed alimentazione. Allora buongiorno e grazie per essere con noi a Claudia Parzani, che è presidente di Valore D, che è l'organizzazione appunto che si è occupata di allestire questo evento. Dottoressa, avvocato Parzani, anzi, buongiorno, buongiorno e benvenuta, buongiorno presidente. A voi. Benvenuta. A beneficio di tutti i nostri ascoltatori. Avvocato, ci racconti che cos'è Valore D e che cosa succederà a Expo? Certo, con enorme piacere. Allora, Valore D è un'associazione di aziende nata ormai 6 anni fa e che oggi conta 143 aziende, che lavora per la promozione del talento femminile, per mettere le donne nella condizione di poter avere pari opportunità nel contesto lavorativo. L'associazione lavora